Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Non ci siamo, questi rivetti devono essere completamente lisci. Voglio che ogni dito e giunto siano fresati. Non voglio resistenza dell'aria sulla fusoliera. Deve essere completamente liscia, Odi. Liscia, intesi? Ok, Howard. Non so che altro dirti. Avete appena sentito una clip tratta da Via Vietor, un film del 2004 di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che racconta la storia di Howard Hughes, un imprenditore visionario che creò una linea aerea, una società di produzione di aerei e anche una casa cinematografica. Ve l'ho fatto sentire perché si parla di rivetti, di viti, e l'oggetto di questa puntata, come vedrete fra poco, è la Brugola, l'azienda che diede il nome a una delle vite più diffuse. E anche perché c'è una figura di imprenditore eroe, di imprenditore che crede in qualcosa che poi si trasforma in qualcosa di importante, arricchisce la società, di imprenditore epico. Ecco, dovrebbe esserci una narrazione di questo tipo più diffusa, perché la nostra società in fondo si regge sull'impresa, non sui cuochi o su altre cose che sono inutilmente e scioccamente protagoniste dei media. Comunque, in Italia c'è stato un personaggio che è paragonabile ad Howard Hughes e che era Egidio Brugola, il fondatore della Brugola, da cui anche la famosa vite a Brugola e la chiave a Brugola, una famiglia, una vite. E questa azienda, nata nel 1926, oggi è uno, pensate, dei leader mondiali nella produzione di viti ad alto valore aggiunto per il settore automotive. Ha circa 120 milioni di euro di ricavi ed ha addirittura aperto uno stabilimento a Detroit nel quale produce viti per i produttori di automobili americane. Quindi noi italiani, che abbiamo perso la Fiat, che ormai non c'è più, andiamo negi Stati Uniti a vendere le viti agli americani, oltretutto un prodotto veramente è difficile, perché le viti sono la cosa più semplice da copiare, la cosa più immediata. Ne prendi una, la ficchi in una macchina e hai milioni di viti uguali e ti hanno belle che fregato. Eppure l'eccellenza italiana va a produrre viti negli Stati Uniti, perché gli americani evidentemente non riescono a farle così belle, così utili. Ma lasciamo la parola a Jody Brugola. Buongiorno. Buongiorno a lei, salve. Che è il nipote del mitico Egidio e era un po' una figura alla Hughes, suo nonno? Assolutamente, era una persona che aveva una visione, aveva un'idea, un grandissimo appassionato di meccanica, una persona che ha incominciato dal nulla a produrre, diciamo così, queste viti e le ha portate a diventare un punto proprio di riferimento per l'Italia, perché tutti hanno cominciato a chiamarle come le viti esagonali, ma sono quelle del Brugola. Ecco, spieghiamo agli ascoltatori che non ne capiscono molto, che cos'è la vite a Brugola? La vite a Brugola è una vite a testa, diciamo, esagonale, che garantiva un certo tipo di presa proprio in chiave, e si riusciva a garantire praticamente una stabilità maggiore rispetto a quella che erano le viti o quello che si riusciva a trovare in passato. Praticamente c'è un esagono all'interno che permette, sì, di inserire la chiave quindi Brugola, una forma di serraggio, e garantiva praticamente delle prestazioni che ai tempi non erano introvabili, tant'è che anche oggi la vite esagonale viene usata ancora in larga parte. Per esempio, lei citava gli Stati Uniti, negli Stati Uniti si usano ancora tantissime viti con la forma esagonale, perché è una forma semplice che però garantisce dei buoni risultati. Poi invece suo padre, Gian Antonio, ha inventato la vite Polydrive, che sarebbe? Polydrive è un altro tipo di serraggio, dove la cosa grandiosa del Polydrive era appunto che si riusciva a garantire ancora un certo tipo di serraggio ancora più efficiente, ma qualora si fosse rotta la chiave Polydrive si poteva comunque serrare la vite con una chiave a Brugola. Quindi l'invenzione di mio nonno e l'invenzione di mio padre in una vite. Ma lei non inventa nessuna vite? Io ho 37 anni, mi dia un po' di tempo. Ah, ecco. Solo che le viti sono un prodotto nel quale è difficile andare oltre, nel senso, non è che puoi fare la vita invisibile, cioè quale può essere, cioè la tecnologia a un certo punto si ferma su una roba così, no? Sì, però calcoli che magari andare oltre è difficile, però arrivare al punto di eccellenza al quale comunque siamo arrivati noi è altrettanto molto difficile, quindi ma continuare però a garantire questo tipo di qualità non è semplice, portarlo e esportarlo negli Stati Uniti è motivo d'orgoglio, però vedi, quello che noi cerchiamo di fare tutti gli anni è di innovare sempre, almeno 2 o 3 invenzioni tecnologiche, ok, perché non è che stiamo a guardare e viviamo di rendita rispetto a quello che ha fatto mio padre, noi cerchiamo di andare avanti, di innovare e ogni anno vediamo che ci sono proprio delle idee che diventano miglioramento del processo. Ma quando c'è da svitare qualcosa in casa, lo fa lei o lo fa sua moglie? Ma guardi, non lo fa nessuno dei due, primo perché non sono sposato e secondo perché di solito non le faccio io queste cose. Sentite qua una prima parte della storia della brugola. La OEB, acronimo di Officine Egidio Brugola, produce viti di altissima qualità, destinate totalmente al mercato auto e al 100% esportate. È specializzata soprattutto nelle critical fasteners, o viti critiche, cioè quelle dedicate al montaggio dei componenti vitali del motore stesso. Sono 7 su 70 e in moltissimi casi nel mondo sono made by Brugola. I principali clienti sono nell'ordine Ford, Volkswagen, Renault e Opel. Ed è soprattutto per seguire il cliente Ford che l'anno scorso è stato aperto lo stabilimento di Detroit. L'azienda ha sede a Lissone, in provincia di Monza, fattura circa 120 milioni di euro e ha 300 dipendenti. Tra gli azionisti c'è anche il Fondo Strategico Italiano che, come è noto, investe in imprese di rilevante interesse nazionale. L'azienda ha dato il nome al suo prodotto più conosciuto, la vite a brugola, che grazie all'esagono incassato si può avvitare in modo saldo e svitare facilmente per mezzo di una chiave a brugola. Come Biro, Gillette e Diesel, Egidio Brugola, il fondatore dell'azienda, è uno dei pochi ad aver dato il proprio nome ad un oggetto di uso comune. La OEB nasce nel 1926 a Lissone, dall'esperienza tecnica del suo fondatore Egidio Brugola, come fabbrica di rondelle, anelli speciali per motori e affini. La ricerca e l'ottenimento della qualità è stata fin dall'inizio la filosofia della OEB. Verso la fine degli anni 20, Egidio Brugola ebbe l'intuizione di allargare e diversificare la produzione al settore della viteria, iniziando quasi subito a fabbricare viti ad esagono incassato, una tipologia di vite che all'inizio del secolo esisteva già, ma che all'epoca era considerato un prodotto molto esotico. Egidio Brugola iniziò a produrre questa particolare vite e credette nel prodotto a tal punto da incentivare la redazione di una specifica ed ufficiale norma di standardizzazione della vite ad esagono incassato, che lo portò anni dopo a depositare un brevetto. Egidio Brugola era innamorato della meccanica e accettava in modo particolare le sfide tecnologiche, annoverando un gran numero di primati, tra i quali lo stampaggio a freddo delle viti, in particolare quelle in acciaio inossidabile, e l'utilizzo di macchine speciali per la produzione di particolari che in precedenza venivano importati dagli Stati Uniti. Rieccoci in linea con Jody Brugola, ultimo discendente della dinastia famosa di inventori di vite. Ecco, ma ci chiedevano qui dalla regia, ma ci sarà mai una vite che si autoavvita? È una bella domanda, sinceramente non saprei cosa rispondere. Ecco, invece le volevo chiedere una cosa sulla Brianza. Voi siete a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Monza e Brianza è una delle province più industrializzate d'Europa, la 6ª provincia industrializzata d'Europa, la 3ª provincia industrializzata d'Italia, una delle province più industrializzate al mondo. Appena ti giri c'è qualcuno che fa qualcosa di meccanico. Quanto ha rilevanza questo elemento nella creazione di valore da parte della sua azienda? Sicuramente la Brianza garantisce un livello tecnologico che raggiunge veramente i massimi livelli anche a livello europeo e mondiale. Se lei pensa che comunque nel nostro settore ci sono tre aziende importanti, tra le quali appunto la nostra, che appunto sono andate negli Stati Uniti a portare quello che è il know-how sviluppato appunto in Brianza. Penso che questo sia veramente un grande motivo di soddisfazione per il nostro paese e per il nostro territorio. Vi è una cultura del lavoro che è introvabile in giro per il mondo, glielo posso garantire, lo vediamo anche negli Stati Uniti, dove lavorano per noi bravissime persone americane, ma l'efficienza, la velocità, il metodo di lavoro che le persone brianzole o le persone che sono cresciute in Brianza, ok, riescono veramente ad avere delle performance introvabili in giro per il mondo. Ed è, non è un caso appunto che sia un territorio dove ci sono tantissime belle aziende, anche se purtroppo anche in Brianza negli ultimi anni c'è stata un po' di crisi. C'è stato un po' di crisi. Po' come se la Brianza fosse una grande mega azienda diffusa, per cui è importante stare in Brianza perché lì c'è un know-how accumulato nel tempo che non è solo quello dei propri lavoratori, ma anche quello dei propri fornitori, dei propri consulenti e perfino dei propri clienti con i quali si interagisce sviluppando, conservando conoscenza. Ci sono appunto dei legami che sono formati, si creano, sono tutti i fornitori, ha detto una cosa giustissima, sono proprio delle aziende che sono cresciute attraverso la collaborazione in tutti questi anni e hanno garantito, voglio dire, il successo, che è stato il successo sia del fornitore, fornitore di un'azienda per esempio come la nostra, e chiaramente il nostro successo con i clienti del settore automotive. Però è veramente è stato un patto di ferro che ha reso grande quel territorio, ecco. Ecco, ci dobbiamo interrompere un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ah, guarda, aspetta. Ne sei sicuro? Non vuoi pensarci almeno 5 minuti? Senti, Jack, quando prendo una tigre per la coda, non la lascio certo andare. Ecco, Howard Hughes, quando prendeva una tigre per la coda, non la lasciava certo andare. E così era anche Egidio Brugola, il fondatore dell'azienda che prende il suo nome, l'inventore della chiave, il fondatore di una dinastia, che oggi è un'azienda che è tra i leader mondiali nelle viti per l'automotive. Tanto da aver aperto uno stabilimento a Detroit e esportare in tutto il mondo. Tra l'altro è considerata un'azienda in qualche modo di interesse nazionale, tanto che c'è un 15% del capitale che è nelle mani del fondo strategico. Ecco, proseguiamo la conversazione con Joe Di Brugola, ultimo esponente della dinastia che è qui ospite da noi, e gli chiedo: ma come mai il fondo strategico nel vostro capitale? Fondo italiano di investimento. Fondo italiano di investimento, perdonino gli ascoltatori. Se no mi bacchettano dopo. Mi dica. Fondo italiano di investimento ha dato la possibilità alla Brugola, in un periodo dove la Brugola usciva dalla crisi, perché la crisi del 2009 aveva sicuramente, ci aveva messo in difficoltà, perché ai tempi non si credeva più nel settore automotive, anche se il settore automotive rappresenta un terzo dell'economia mondiale. Dopo anni di crisi, dove noi siamo riusciti a raddoppiare il fatturato e siamo stati molto performanti, avevamo bisogno sicuramente di qualcuno che ci potesse dare una mano nella prima grossa, ad avere una prima grossa tranche dal punto di vista economico per aprire negli Stati Uniti. Il fondo è entrato appunto all'inizio del 2015 e ha dato la possibilità all'azienda appunto di incominciare questa avventura americana, che è un'avventura di successo, perché noi siamo riusciti in pochissimi mesi a produrre e a cominciare a vendere le viti negli Stati Uniti, tant'è che oggi siamo già oltre il 50% di produzione di quello che prima si faceva solo in Italia, lo produciamo già negli Stati Uniti. Entro in meno di 2 anni arriveremo al 100% di produzione lì. E chiaramente vogliamo, è un progetto a 10-15 anni nel quale vogliamo diventare un punto di riferimento per quello che è il territorio americano. Ecco. Senta, ma come si immagina lei il futuro della sua azienda? Come la vede fra 10 o fra 20 anni? La vedo un'azienda molto più strutturata, chiaramente spero e credo più grande. Quindi noi dobbiamo sicuramente crescere, dobbiamo diventare un'azienda più strutturata, dobbiamo diventare un'azienda rivolta verso il futuro. Cosa intendo con questo? Intendo che tutte le nuove tecnologie dovranno essere implementate perché il mondo va avanti, bisogna avere sempre più informazioni, sempre in maniera più veloce e reagire di conseguenza perché il mondo sarà sempre più competitivo nei prossimi anni, noi lo vediamo con l'Asia, l'Asia è molto aggressiva e noi dobbiamo cercare di stare al passo, ma l'unico modo per farlo è quello di continuare ad innovare e mi permetto di dire una cosa della quale vado molto fiero, investire tantissimo sulle donne, perché negli ultimi anni noi abbiamo raddoppiato le donne in azienda e devo dire che sono delle risorse molto utili a far crescere in maniera anche più veloce l'azienda. Ma sicuramente questo per lei è un elemento importante. Io un po' su quest'idea ho dei dubbi a livello personale, non ci credo, però se lei la vuole evidenziare poi gli ascoltatori si faranno un'idea. Ci sono donne brave, intelligenti, capaci e con voglia di lavorare esattamente come gli uomini, ma anche donne che vanno avanti a furia di raccomandazioni, che non hanno voglia di lavorare e che non capiscono quello che stanno facendo, esattamente come gli uomini e le donne, a mio avviso, hanno gli stessi pregi e difetti. E forse c'è un po' troppa retorica, ma comunque questa è una parentesi personale, direi che torniamo a occuparci di meccanica. Lei invece pensa di sì? Io penso che ci sono delle donne che in questi anni hanno dimostrato il loro valore e hanno dimostrato, diciamo così, un po' meno di spocchia rispetto a certe persone che pensavano che di sapere tutto loro e loro partendo magari da una posizione di svantaggio hanno invece dimostrato con i fatti di essere assolutamente in grado di fare lo stesso lavoro che prima magari si poteva pensare potesse fare solo un uomo. Ecco, certo, forse nel manifatturiero ci sono un po' troppi uomini e visto che ormai il manifatturiero è questione di intelligenza, di sapere diffuso e non più di mani, anche se si chiama anche manufatturiero, non ha molto senso questo. No, in un'azienda metalmeccanica è sicuramente un esempio che va, è un po' strano che un'azienda abbia raddoppiato il numero delle donne negli ultimi 3 anni, però hanno dimostrato che possono tranquillamente competere e vedo che ci sono sempre più donne che sono affascinate al mondo della produzione. Perché il mondo della produzione ormai è un mondo nel quale l'intelligenza del progetto è ciò che è più determinante, né il capitale né il lavoro inteso come lavoro manuale. Purtroppo c'è ancora un immaginario diffuso sulle fabbriche come luoghi sporchi, fuligginosi e dove ci sono operai che stanno al caldo e che soffrono. Ormai le fabbriche attuali del futuro sono sempre più simili a laboratori. Guardi, mio padre aveva una cultura della pulizia incredibile, la Brugola è una delle aziende del settore, anzi sicuramente quella più pulita di tutte. Un giorno le farò vedere una foto o un video. No, magari vengo anche a vederla. Ma molto volentieri. Poi invece se il video ce lo manda, sì, lo possiamo caricare sul sito della radio, così quando c'è la puntata da scaricare, ricordo che su www.radio24.it potete scaricare tutti i podcast quando volete, i nostri ascoltatori potranno anche vedere il video. Ecco, volevo completare un attimo la storia della Brugola, sentite qui la seconda parte. Le prime macchine da scrivere IBM erano assemblate con speciali tipi di vite senza testa con cava a fiore, detti mini grani, sockets set screw, prodotti proprio dalla italiana OEB. Nel 1964 Egidio Brugola viene a mancare e le redini dell'azienda vengono prese dal figlio Gian Antonio, all'epoca poco più che ventenne. Nel 1968 le viti Brugola vengono montate a bordo dell'Apollo 11, la prima navicella spaziale andata sulla Luna. Nel 1980 comincia la produzione di viti speciali per il settore automobilistico, rivolgendosi anche al mercato americano. Il 1994 è considerato come un anno fondamentale per l'azienda, uno spartiacque. Fu il primo anno in cui tutta la produzione dell'azienda andò al solo settore automobilistico. Dal 2006 tutti i motori Ford Europa vengono assemblati in esclusiva con prodotti OEB ed il loro motore V8 di nuova generazione viene assemblato con viti OEB, unico produttore non americano di fasteners. Nel 2011 Egidio Brugola, detto Jody, figlio del cavalier Gian Antonio e nipote del fondatore che operava già in azienda da alcuni anni, assume la carica di vicepresidente ed inaugura la terza generazione di Brugola a capo dell'impresa. Nel 2015 Gian Antonio viene a mancare e Jody, a 36 anni di età, diventa il capo azienda. Eccoci in linea con Gio Di Brugola, al quale volevo fare una domanda conclusiva sull'innovazione. Che cosa significa l'innovazione nel vostro settore? L'innovazione significa sempre stare un passo avanti, sempre per quanto riguarda i materiali, cercare sempre di vedere dove si può migliorare e dove dal punto di vista del processo si possono avere ancora dei risparmi pur garantendo un certo tipo di qualità. Innovazione significa anche studiare, avere una visione del futuro, capire esattamente in che direzione va il mondo e cercare di... Ecco, il mondo dell'automotive va verso... Verso un concetto di maggiore mobilità intesa come condivisione di informazioni, condivisione anche di quelli che sono i mezzi, va verso un mondo che sarà sempre più fatto di macchine elettriche, ibride e a minore emissione, e anche si va in una direzione dove probabilmente alcune macchine, non so se questo succederà mai, però le macchine che guidano da sole, ecco, anche se qui ci sono... E questo per il mondo della vita comporta tutto un universo nuovo. Assolutamente, dovremo adeguarci. Ecco, purtroppo dobbiamo chiudere. Saluto gli ascoltatori e saluto Gio Di Brugola. Grazie a tutti voi, grazie mille. E spero che l'avremo ancora nostro ospite. Noi ci sentiamo domani ore 13:10.